pagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Non lo dico per una captatio benevolenze da parte del mio pubblico, ma ve lo giuro su ciò che ho di più sacro. Io una mezz'ora fa non sapevo che avrei fatto questa trasmissione, ma sono felice di farla comunque perché avrò occasione di trasferire al mio pubblico quello che è il pensiero assillante della mia esistenza. Sì, perché io me lo chiedo tutti i giorni, lo chiedo ogni istante, ogni mio pensiero è intriso da questa profonda preoccupazione. E quindi questa mattina vi prego di seguirmi e vi prego di corroborare con la vostra attenzione, con il vostro contributo, quello che è il mio dilemma. Quante vite viviamo? Quante volte si muore? Si dice che nel preciso istante della morte tutti perdiamo 21 grammi di peso, nessuno escluso. Ma quanto c'è in 21 grammi? Quanto va perduto? Quando li perdiamo quei 21 grammi, quanto se ne va con loro? Quanto si guadagna? Quanto si guadagna? 21 grammi, il peso di 5 nichelini uno sull'altro, il peso di un colibrì, di una barretta di cioccolato. Quanto valgono 21 grammi? Sì, questa mattina mi vorrò interrogare su cosa sia l'anima. Dove sta l'anima? Cosa intendiamo per anima? Quando diciamo questa cosa me la strappo dall'anima, da dove ce lo strappiamo? Esiste una convinzione che pare anche supportata da un minimo di letteratura scientifica, che in realtà nel momento del decesso noi ci liberiamo di 21 grammi. Questi 21 grammi probabilmente, come cita il titolo di un film molto noto, che poi ha tutto un altro argomento, di Alejandro González Iñárritu, è il peso dell'anima, i 21 grammi. Questi 21 grammi simbolici, ipotetici, se vogliamo circoscrivere il dilemma, l'angoscia, il vero grande interrogativo della nostra esistenza, è racchiuso in 21 grammi. Cosa sono? Dove vanno? Perché durante la nostra esistenza collochiamo in questi 21 grammi tutta la più profonda e la più radicale essenza di ciò che abbiamo come interiore? A me piace molto pensare, e sono abbastanza d'accordo con quella struggente, romantica, tenera e stracitatissima poesia di Adriano, dell'imperatore Adriano, che definisce l'anima come qualcosa di piccolo, sperduto, tenero, animula, vagula, blandula, piccola, anima smarrita e soave, compagna ospite del corpo, che quando se ne va, quando si allontana dal corpo, improvvisamente diventa tremebonda, spaventata, sa che entrerà in un mondo senza colore, in un mondo eternamente grigio, e quindi non potrà più essere a sua volta illuminata e corroborata da quello che sono le connessioni con i nostri sensi. A me piace pensare che la nostra anima veda quello che noi vediamo, senta quello che noi sentiamo, viva, palpiti, sia in fondo il microprocessore più interiore che abbiamo noi dentro, che muove tutto il nostro corpo, che dà tutte le nostre sensazioni, ma che abbia una sua autonomia, abbia la possibilità di mantenere in memoria quello che noi vediamo, sentiamo, sia il luogo del ribollire delle nostre contraddizioni. E quando quest'anima se ne va, probabilmente noi ci troviamo di fronte al grande dilemma: dove siamo noi? Siamo in questa carne che tanta soddisfazione ci ha dato, che ci ha permesso di sentire, di annusare, di perimetrare il mondo che ci circonda, o siamo in quella animula vagula blandula, siamo in quella cosa che non c'è più, che non esiste più? Beh, intorno a questo concetto dell'anima, intorno al senso di sacro di improfanabile dell'anima, che è qualcosa che ha una vita che prosegue oltre la vita del corpo. Si è spesa tanta letteratura, si sono costruiti universi teologici, gli uomini hanno sempre pensato, immaginato, hanno cercato punti di riferimento superiori, ma noi questa mattina partiremo da esattamente il punto di vista contrario. L'uomo che pensa che l'anima sia qualcosa di rappresentabile, di ricostruibile, di riproducibile, e quindi tenta l'opera che ha sempre terrorizzato e fatto tremare ogni essere umano, di ricostruire anche lui la perfezione dell'essere umano completo di anima. Dopotutto sono solo dei tessuti senza vita. Ne può venir fuori solo del male. Lei ha creato un mostro che potrebbe distruggerla. In tal caso, pazienza, dottore. Io credo in questo mostro, come lo chiama lei. Lei invece no. Allora mi lasci stare. Ha visto? Mi ha capito. Guardi. Stia attento, dottore. Attento. Tolga quella luce. Ha visto, capisce. Non è splendido. Dottore, dottore, dov'è? Dov'è? Spegnila, idiota. Presto, prendi una corda. Portiamolo in cantina. Uccidetelo. È un mostro. È un mostro, la creatura del dottor Frankenstein è indubbiamente un mostro. È fatto di pezzi di cadavere, quindi è fatto di materia in via di disfacimento, riuniti, ricuciti alla belle meglio. Ma la vera anima, il vero cuore della creatura del dottor Frankenstein è in realtà quell'anima che lui tenta di infondergli rubando la scintilla al fulmine, che è una sorta di antico mitologico e prometeico mito, che in realtà gli dei trasmettessero agli uomini attraverso il fulmine qualcosa di quella scintilla che permetteva agli uomini di essere tali, di essere esseri umani. Vi leggo l'incipit del romanzo del dottor Frankenstein, così capiamo quale fu il contesto in cui si realizzò questa opera, che in realtà è un punto, un anello di passaggio rispetto al grande sogno e immaginazione di tutte le mistiche, di tutte le teologie, ma anche di tutta la moderna narrativa fantascientifica. In realtà non è proprio l'incipit, l'incipit è la descrizione che Victor Frankenstein fa proprio del suo esperimento. Fu una cupa notte di novembre che vidi il coronamento delle mie fatiche. Con un'ansia che raggiungeva quasi lo spasimo, raccolsi intorno a me gli strumenti necessari a infondere una scintilla di vita nella cosa immota stesa ai miei piedi. Era già l'una del mattino, la pioggia batteva tristemente sui vetri, la candela era quasi completamente consumata, quando a un guizzo della luce che stava finendo vidi velati occhi gialli della creatura aprirsi. Respirò a fatica e un movimento convulso le agitò le membra. Stefano Moriggi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ho convocato urgentemente, mentre si stava piegando il pigiamino nella sua valigia, Stefano Moriggi, che fortunatamente stava in un hotel qui accanto alla nostra radio, e l'ho convocato in quanto filosofo della scienza, in quanto studioso della problematica ricostruttiva anche dell'anima da parte appunto della scienza, per parlare, partendo da Frankenstein, innanzitutto di questa avventura che è stata lungamente trattata dai nostri giornali per un paio di giorni, l'esperimento, l'annuncio del professor Craig Venter, che avrebbe costruito la vita artificiale, avrebbe creato la prima cellula sintetica che si può riprodurre. Assomiglia al mitologico sogno del dottor Frankenstein, quello di cui si sta parlando? Ci sono molte possibili sovrapposizioni, perché quello che ha fatto e sta facendo Craig Venter sembra la ultima riproposizione, la ultima incarnazione del mito di Prometeo. Ricordiamo che Frankenstein, il libro di Mary Shelley, porta un sottotitolo che è Il Prometeo Moderno, e la sfida del Prometeo Moderno è quella di comprendere la vita riproducendola. Poi magari avremo modo di entrare più nel merito di questa grande avventura. Nel caso di Craig Venter si è parlata di vita artificiale in maniera un po' impropria, se vuoi anche propagandistica. Più propriamente si dovrebbe parlare della costruzione di una cellula sintetica, e nella fattispecie si è trattato di prendere un cromosoma artificiale, di inserirlo all'interno di una cellula privata del suo DNA. È un procedimento, era come dire un programma che Craig Venter aveva annunciato, anticipato, che adesso ha realizzato e ne ha mostrato, prefigurando scenari futuri, le potenziali e potentissime applicazioni che rivoluzionano la biologia, ma come giustamente ha detto Craig Venter, anche il concetto di vita stessa dal punto di vista filosofico. Ecco, io capisco che la vulgata giornalistica si butta su questi eventi per tre giorni, non è stato parlato d'altro che della terrificante e spaventosa opera di violazione delle leggi naturali. Ma è da tanto tempo, da quando cominciò a girare in tutta Europa la leggenda del golem, di questa possibilità attraverso formule cabalistiche di ricostruire in maniera sacrilega l'opera divina, perché Rabbi Löw, che rabbino preghese che aveva dato la vita al suo pupazzo d'argilla, in realtà perirà sotto la sopra. C'è sempre un grande anatema nelle ricostruzioni dell'anima, non tanto la ricostruzione del corpo. Tu considera, Stefano, che oggi non ci si scandalizza più, è stato argomento di tante trasmissioni che abbiamo fatto insieme, sul fatto che noi possiamo riprogettare il nostro corpo. La nostra carne è riprogettabile, ma ancora esiste nella percezione generale comune, al di là di ogni convinzione religiosa, anche nel più radicato dei pensieri laici, che esista un livello di intoccabilità, che è appunto il sistema operativo della nostra esistenza, che qualcuno potrebbe chiamare anima. Vorrei chiamare Fabrizio. Fabrizio, buongiorno. Oh, buongiorno Gianluca, saluto anche il tuo ospite. Do i numeri di telefono, se permetti, che non ho ancora dato, e quindi sei stato fantastico nel telefonare, ma probabilmente avevi i numeri memorizzati. 800 24 0024, in questa meravigliosa assolata giornata di sfumatura tra primavera e estate, visto la primavera ce la siamo soltanto sognata e immaginata, chiamata all'800 24 0024 per darmi la vostra definizione dell'anima. Vorrei sapere dove sta nella vostra percezione questa benedetta anima, anche ammesso che voi pensiate che tutto finisce con la morte biologica, in questo momento dove siete collocati, se volete collocarvi al di là della vostra carcassa corporea. Tu, Fabrizio, cosa dici? Ma spesso si è ipotizzato che ci fosse una dicotomia tra il corpo fisico e un'anima immateriale, un'anima spirituale. Ma purtuttavia la parola anima, che è dall'ebraico nefesh e greco psiche, non è altro che noi stessi, perché Genesi 2:7, parlando biblicamente, dice che dopo che Dio ebbe infuso il respiro al corpo fatto dall'argilla, dice che l'uomo divenne anima vivente, non che le fu data un'anima, ma che lo divenne. Infatti il mito del golem, che ha lungamente ispirato la mia esistenza, si riferisce proprio a questo passo che tu hai citato. Golem era prima che ci fosse questo soffio. Noi stiamo parlando di costruttori di golem, cioè di qualcosa che in realtà potrebbe essere tutto in potenza, ma in sostanza in realtà non è, perché manca questo soffio. È la ricerca del soffio che in realtà sembra il livello più invalicabile, l'accanimento scientifico, perché a costruire pupazzi siamo bravi, esistono ormai delle raffinatissime emulazioni di esseri umani che fanno delle funzioni che sembrano quasi riproducibili quelle reali, cosiddette naturali, macchine per amarsi, macchine per comunicare, macchine per guarire, macchine per sognare. Ci ricostruiamo tutti i mondi possibili sensorialmente, ma ci si ferma laddove c'è il livello dell'indicibile. Vediamo cosa ne dice Luca. Luca, buongiorno. Stavo pensando che fortunatamente chi lavora in questi settori, nel campo della rigenerazione genetica o delle cellule eccetera, riesce a lavorare solo sul corpo e non potrà mai lavorare sull'anima, che poi, come ha detto giustamente questo signore, l'ultimo siamo noi stessi. Come fa uno a rigenerare se stesso dal punto di vista dell'anima? L'anima è se stesso, punto. Poi se uno vuole creare dei corpi diversi, oppure vuole modificare o vuole creare degli stereotipi, tipo come fa la psichiatria ad esempio, beh, a quel punto lavora però sul corpo, non può lavorare sull'anima, quindi meno male che è così. Vi porto un'altra provocazione, vediamo se riusciamo ad andare avanti. Oggi in epoca di facili ricostruzioni, riproduzione di se stessi, amplificazione di se stessi, ne abbiamo parlato un'infinità di volte, sono quegli argomenti che ritornano correntemente. Rispetto alle nostre possibilità di espandersi, noi ci espandiamo fisicamente dando una sorta di potenziamento ai nostri sensi, ad esempio in questo momento parlando io e Luca attraverso appunto l'etra, attraverso il mio microfono, attraverso il trasmettitore della nostra radio, attraverso l'apparecchio ricevente attraverso cui Luca mi ascolta, attraverso il telefono a cui noi, attraverso cui noi ci parliamo. Quindi queste sono tutte protesi che allungano, aumentano la nostra emotività, ci mettono in contatto. La cosa che più assomiglia a una ricostruzione, anche seppur ipotetica, della nostra anima è l'ombra digitale che noi ci portiamo dietro. Ognuno di noi da quando nasce lascia una traccia di se stesso in un mondo in concreto, quindi ha tutte le caratteristiche in realtà del regno delle anime, e questa cosa cresce, si impregna della nostra esistenza, molte volte ha una sua autonomia evolutiva, e sono tutte le tracce che noi lasciamo nel mondo digitale, il nostro passaggio. Voi pensate, la prima ecografia viene fatta ormai attraverso apparecchi digitali, i genitori se la portano a casa, la scambiano via email con i loro amici, molti la pubblicano nel loro blog, poi nasciamo, poi veniamo segnati a un'anagrafe, qualcuno memorizza da qualche parte i nostri dati, cominciano a farci foto, filmini, tutti questi sono tutti supporti che vanno digitalmente ad accrescere la nostra ombra digitale, e il mondo delle ombre e il mondo dell'anima hanno sempre corrisposto. Voi pensate all'età venerabile di 50 e passa anni, quanto c'è di me ormai digitalizzato, basta cercare con un motore di ricerca, troviamo foto, troviamo immagini, troviamo scritti, ma questo avviene per qualsiasi essere umano che abbia comunque vissuto questa epoca. Ecco Stefano, quali sono le differenze, non voglio dire sostanziali, ma dal punto di vista proprio dei riferimenti simbolici, allegorici, dell'ombra digitale e dell'anima? Ma guarda, consentimi di dire una cosa sugli interventi dei tuoi ascoltatori. Hanno toccato dei punti cruciali anche della storia che il concetto di anima ha avuto. Per loro anima è un problema, la soluzione al problema della vita. Che cos'è la vita? Cosa siamo noi? Come ci identifichiamo? Come ci riconosciamo in quanto tali? E come una strategia di difesa tendono a non ridurre l'anima al corpo. Quello che invece la storia della scienza ha provato a fare è quello di comprendere la vita attraverso quella vita concreta che noi incarniamo, per dirlo in maniera qualitativa. La sfida di Frankenstein era quella, in un'epoca in cui per esempio il galvanismo andava molto di moda, gli studi di Erasmus Darwin cominciavano a solleticare anche l'immaginario degli scrittori, ecco, il tentativo era quello di comprendere la vita nella sua evoluzione riproducendola. Eh sì, però questo non dà una risposta. Non dà risposta al grande sogno, alla grande illusione, al grande atto di fede, la grande speranza o la grande certezza dell'umanità di poter sopravvivere alla fine biologica del proprio corpo. Questa è la risposta a quello che viene dopo la vita. Tu cerchi nella vita o in una equazione con cui rileggi il problema della vita a quello che viene dopo la vita. Questo è un problema che la scienza, diciamo, lascia alla metafisica. La scienza tenta di comprendere quelle dinamiche che costituiscono, rappresentano, raccontano l'evoluzione della vita attraverso la vita medesima come noi la conosciamo. Naturalmente non ponendosi delle aree non verificabili, non analizzabili, non percorribili, perché il vero anatema sotterraneo che sottende tutta la narrativa delle ricostruzioni di esseri artificiali, cioè sempre che si è andati a mettere le mani in qualcosa in cui l'uomo non deve mettere le mani. Anche la creatura del dottor Frankenstein alla fine si rivolta contro il suo creatore. Queste creature, questi tentativi non sono altro che dei grandi, enormi, terrificanti aborti di un'umanità che cerca di costruire qualcosa su cui non può mettere le mani. Sì, sono due i temi che si intrecciano in questo problema. Da un lato c'è quello della presunta tracotanza dello scienziato che gioca a fare Dio, cosa che in teoria non dovrebbe fare, violando delle leggi che non dovrebbe toccare. In realtà il Frankenstein, la stessa storia di Golem a cui tu alludevi, potrebbero essere lette in un altro modo, cioè che lo scienziato deve avere la responsabilità dei suoi gesti, e questo non comporta alcun limite relativamente alla tracotanza, ma sposta il problema su sulla responsabilità sociale e civile delle sue ricerche, dei suoi programmi di ricerca. Sono due problemi molto, molto diversi. Tu pensa solo, nel 1943 c'è stato un altro piccolo Frankenstein che ha in qualche modo insidiato il concetto dell'anima, quando Alan Turing confessava, mentre lavorava alla crittografia di interesse militare, ai suoi colleghi di poter e di sognare di costruire un cervello artificiale. Scandalizzò non pochi, però si rivelò un grandissimo programma di ricerca. ...800-24-0024... Questa mattina ci siamo presi la briga di parlare dell'anima. Non so se siamo degni di poterlo fare, ma abbiamo una certezza sicuramente: chiunque ne parli non sa esattamente cosa sia. In realtà la definizione dell'anima non è un'esperienza, non può essere un'esperienza, o perlomeno forse può esserlo in chi ha una possibilità fatale di un cammino, un percorso mistico reale, concreto, che porti realmente a avere l'esperienza del sovrannaturale. Esperienza sempre molto difficilmente trasferibile, anche lì può essere raccontata, può essere poeticamente espressa. La vera e fantastica meraviglia del racconto, del ineffabile momento dell'unione mistica, la trovo espressa nella maniera migliore delle poesie. I mistici poeti sono i migliori, quelli raccontano in maniera migliore la loro esperienza. Ma è pur sempre un atto di fede ascoltare quello che loro dicono, seguire il loro vito, no? È entrare in un sistema di riferimenti religiosi, in un canone, in una guida di esercizio, di applicazione di metodo, non è mai un'esperienza. Oggi ho chiesto al mio pubblico dove sia secondo loro l'anima. Tanto ne parliamo, tanto ci preoccupiamo per l'anima, la nostra coscienza, il nostro senso etico non è soltanto appoggiato a una necessità di convivenza con i nostri simili, a un ossequio a delle leggi che regolano i rapporti tra uomini. C'è sempre un profondo, interiore senso di giustizia o ingiustizia, di giusto e non giusto, di buono o di sbagliato, che noi collochiamo nella parte più riposta della nostra coscienza. Anche l'innamoramento, anche la delusione d'amore, anche l'angoscia amorosa è sempre un riferimento all'anima. Noi molte volte ci accorgiamo di avere l'anima quando siamo innamorati o quando siamo fortemente colpiti da una tragedia. Ci accorgiamo, c'è qualcosa dentro di noi che ci colpisce, che non vogliamo credere o non vogliamo ammettere se soltanto il risultato di processi chimici. Collochiamo e inventiamo e scopriamo e immaginiamo e riconfermiamo che esista l'anima. Vi leggo qualche risposta presa da Facebook, il più inanimato dei luoghi nelle più oscurantiste vulgate, ma in realtà è il luogo, uno dei luoghi più stimolanti in cui le persone deprivate delle loro capacità sensoriali probabilmente esprimono in maniera più profonda, più sentita, più sincera, meno pudibonda il loro pensiero. Pierluigi dice: io so il perché alla notizia all'improvvisa puntata deve aver pensato, ma l'anima è lì e quindi si è adeguato di conseguenza. Beh, questa potrebbe essere anche una soluzione. Andiamo avanti, qualche altro ascoltatore. Anch'io vediamo un po', sto andando avanti. No, non c'è proprio niente di intelligente scritto. Sì, propongo un compromesso, vediamo se ti piace. Si parlerà di anime, dei 100 modi migliori per farle uscire fuori dal corpo dei politici in modo rapido e indolore. Beh, la lettura dell'anima è molto legata all'aspetto più concreto. Sentiamo qualche telefonata. Luca, buongiorno. Vediamo se riusciamo ad aggiungere qualcosa alle banalità che leggo scritto su Facebook. Durante un viaggio a casa della Zabetta, ante litteram, quindi il Vasari, scoprimmo che c'è un piccolo quadro con uno specchio, e questo specchio, all'interno di questo quadro, finiva coperto ogni qualvolta ci fosse un morto, perché c'era usanza, una tabica usanza, di chiusura dello specchio perché si pensava che potesse assorbire l'anima del morente. Guardi, anche i miei contadini umbri negli anni 60-70, quando moriva il vecchio, coprivano lo specchio del canterano, sì, era normale. C'è qualcosa a che fare con lo specchio. Si abbuonano gli specchi perché gli specchi catturano l'anima, confondono l'anima, non danno all'anima la possibilità di seguire il suo percorso, di andare verso la sua serenità, la sua via di realizzazione. L'anima davanti allo specchio si confonde, rimane imprigionata, e per questo viene abbrunato lo specchio. Ma poi veniva anche utilizzata quando c'è una persona che muore, mettendo uno specchio vicino all'alito, alla bocca del moente. Quello è un espediente di tipo clinico, perché tipo, esatto, se si appanna lo specchio vuol dire che ancora respira, fa qualche rantolo, quindi prima di incassettarlo si aspetta. Al respiro, no? Anche lo specchio e il respiro, insomma, non... Lo specchio è un grande strumento di sortilegio, lo specchio è lo strumento della riproduzione, e sappiamo quanto legato alla riproduzione sia la necessità di controllo delle attività riproduttive. Aldo, sentiamo Aldo. Aldo, buongiorno. Buongiorno. Senta, io per spiegare quello che volevo dire, dico una cosa che disse Leopardi in una sua poesia. Disse: cos'è quest'aere tranquillo e io che sono? Perché dico questo? Dico questo perché secondo me in questa epoca, per capire che cos'è l'anima, bisogna capire che cos'è la ragione. Perché il rapporto ragione-realtà fa intravedere che cos'è l'anima. È troppo difficile quello che sto dicendo? No, no, però Stefano Morigi l'avrà capito meglio di me sicuramente. Dunque, io credo che il signore alludesse a un problema di questo tipo, che in un contesto più razionale è il caso di intendere l'anima nei termini della coscienza. È una parola un po' più scientifica, un po' più inquadrata in un contesto meno elusivo di quelli che abbiamo sentito raccontare prima, che riguardano, guarda caso, sempre la morte, una rassicurazione sul destino del sé. Infatti ha citato Adriano, esatto, mi accorgo dell'anima nel momento che la vedo sola, smarrita, sperduta, tremante, in un luogo dove non sono più esatto. Io. Mentre il problema della coscienza è un modo per ricontestualizzare, questo credo volesse fare il tuo ascoltatore. Anche il tuo. Anche il mio ascoltatore, il problema dell'anima in termini un pochino più razionali, lo spazio della coscienza, della libertà di scelta, di capacità di riflessione morale, di un pensiero simbolico, questa può essere un modo per riqualificare l'anima, ma per fare questo si rientra nella traccia del professor Viktor Frankenstein, cioè bisogna compiere l'anima nell'evoluzione dei corpi, delle carni, diciamo in senso più tecnico, nell'evoluzione della biologia, degli studi biologici, ecco. Giusy, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, salve. Ecco. Salve a tutti. Sono felice di partecipare alla sua trasmissione e sono veramente, veramente emozionatissima. Non esistono le parole, non posso dire quanto sono emozionata in questo momento. No, infatti non lo dica, è meglio. Però posso riportare la mia esperienza per quanto riguarda l'anima. No, finalmente, perché guardi, sono fantamillenni che stiamo cercando qualcuno che ci porti un'esperienza che riguarda l'anima. Finalmente okay. C'è lei. Ok. Eccomi. L'anima esiste. E su questo non l'abbiamo mai messo in dubbio. Io mi permetto un po' di metterlo in dubbio, vorrei sapere le argomentazioni con cui il signore lo sostiene. Se esiste in quanto consapevolezza, come hai detto te. No. Ah, sì, certo. No, io sostengo un'altra cosa. Cioè i 21 grammi di cui stiamo parlando, sì, lei sta... Io non posso misurarla, non ho questa capacità e credo che a livello conscio nessuno ci abbia questa capacità. Ma io riesco a sentire la mia anima, quella che gli altri chiamano, quella che si chiama anima e che è una vibrazione, è una grande vibrazione. E riesco, sono talmente emozionata che riesco a sentirla anche adesso. È così, poi esistono infinità di vibrazioni possibili che ci danno piacevolezza, che ci danno senso di smarrimento. Come fa a chiamare che sia l'anima? Io anch'io vibro quando vedo una cosa che mi emoziona. Guardi, no, perché questa è una cosa molto particolare. Io sento la mia anima, cioè la vibrazione, perché noi non siamo altro che un'estensione, una proiezione del mondo non fisico. E siamo mandati qua in uno spazio temporale per creare gioia e amore. Ma noi chi? Quando dice noi chi? Noi, soprattutto noi mandati esseri, da chi, noi signorina? Esseri umani, scusi. Siamo composti da uno stato fisico e da uno stato non fisico. Lo stato non fisico è quella che noi chiamiamo vibrazione, anima, solo che non riusciamo a percepirla perché siamo troppo distratti dal mondo fisico, dal benessere materiale. Questa è, diciamo, è alla base di ogni di ogni metafisica, che oltre l'aspetto concreto e fisico esista qualcosa di ineffabile, va conosciuto, conquistato, di cui bisogna avere esperienza. Il passaggio fra mondo profano e l'area del sacro significa proprio avere lo strumento. Io, guardi, parlo senza nessun pregiudizio, guardi, cito io, quello che l'umanità ha sempre detto. Io ho lo strumento per connettermi, lo strumento, allora, per le vibrazioni. Noi abbiamo un'anima, noi abbiamo un'anima. Quando io riesco, e quest'anima, cioè questa vibrazione, questa entità non fisica, non è altro che un'estensione dell'entità non fisica, cioè di Dio, cioè quella che noi chiamiamo Dio. Sì, ma guardi, quando non, questo riesco, non... Sì, quando, guardi, io sì. quando io riesco a connettermi con la fonte, cioè con quello che noi chiamiamo Dio durante la meditazione, riesco a sentire la mia energia, la mia vibrazione. Però, e questo si manifesta anche a livello fisico, con delle contrazioni, con la sollevazione anche del corpo dal materasso. Cioè lei ha una levitazione. Sì, è un'energia profonda. È sì, una, però guardi, adesso, non interrompo nada. Ho capito, compatto, non ci può. Scusi, se no sembra che poi la voglia interrompere. Abbiamo capito perfettamente. Quello che lei descrive è iscrivibile in una trattatistica, una letteratura. Esistono un'infinità di racconti, di esperienze mistiche. Esistono anche persone che portano prove testimoniali di personaggi che si sollevano, che hanno dei fenomeni che sembrano violare le leggi fisiche per come le conosciamo. Lo scienziato, poi parlerà Morigi, le dirà che comunque esistono delle risorse che noi non conosciamo, che fanno parte appunto della natura umana, che molte volte in certe condizioni, in certe capacità di stressare le nostre risorse interiori, portano anche a delle mutazioni, come tanti stigmatizzati, come tanti fenomeni. Il fenomeno, secondo me, ma questo lo dice anche un metafisico, lo dice un prete, lo dice un maestro di vita, il fenomeno non è mai significativo in realtà dell'irruzione del metafisico. Guardi che nessuna religione ammette che il miracolo, che la reliquia facciano parte della prova essenziale dell'esistenza di Dio. L'esistenza di Dio poi è un altro problema, ma questa mattina non mi metterò certo a confutare o a confermare l'esistenza di Dio. Stefano Morigi. Ma sentendo la signorina, sai, verrebbero delle domande. Noi siamo mandati, dice, mandati da chi? Che prove ha per sostenere questi ragionamenti? Non fa il polemico, no, non faccio il polemico, perché se riportiamo il problema dell'anima all'interno di quel paradigma... Lei parla di una visione religiosa della vita. Quindi... Però si usano dei concetti scientifici. Vibrazione è un concetto che appartiene alla fisica. Allora, o me lo applica in un certo modo, oppure lo usa in modo così creativo, diciamo, come si usa a dire adesso. Allora che... tutto è giustificato. Per cui ho la sensazione che ogni volta, perlomeno da Frankenstein o da Golem in avanti, che si tenti di comprendere il problema dell'anima, della coscienza, di quello che vuoi tu, del nostro modo di essere nel mondo, in termini scientifici e razionali, scattano una serie di strategie di difesa, come se tu andassi a violare un tabernacolo che smaschera in maniera disarmante l'equazione della vita. Invece di essere interessati, da questo si fugge. Questo è un problema psicologico che merita tutta l'attenzione che la testimonianza che abbiamo appena sentito rappresenta. Infatti mi scrive Mara su Facebook, il mondo di Facebook si è rivoltato al fatto ciò che scrive solo banalità, e dice: l'uomo civile ha barattato una parte della sua possibilità di felicità per un po' di sicurezza nell'anima. E Silvia dice: Morigi sottilizza, quella forse pensava di levitare. ...800 24 0024, avete visto, è divertente, periglioso, pericoloso, stimolante, vibrante parlare di anima, comunque sia nella concordanza o nella discordanza dei pareri, delle opinioni, dei modi di sentire. Parlare di anima risolve o solleva tutta un'infinità di riflessioni, come ad esempio Vincenzo, che è convinto Pronto? Che l'anima non esista. Vincenzo, buongiorno. Pronto? Eccolo qua. Buongiorno Nicoletti, grazie per avermi chiamato, e avrei due osservazioni magari banali. Una è che si dice animula e non animula. Vabbè, grazie. Questo, sì. Mi sembra abbastanza importante. La seconda cosa, che io come perito settore vorrei sapere una cosa, ma si tiene conto del rilassamento degli spinteri in quei 21 grammi? Guardi, ci avevamo detto io e Morigi entrando in questa, in questo studio radiofonico, lui dice: guarda, questa dei 21 grammi è vero, pare che sia stati pesati i corpi dei morti. E io dico: guarda, però quando si muore c'è tutta un'espulsione fisiologica, per cui si pesa un po' meno, è chiaro, ci si disidrata subito, si comincia a perdere liquidi e via dicendo. Ma in questo momento, guardi, non è che vogliamo scientificamente provare quei 21 grammi appartengono all'anima o all'animula, vogliamo semplicemente cercare di confrontarci con la percezione che ognuno ha di questa cosa, che fa parte del nostro corredo, non voglio dire biologico ma emotivo. Siamo cresciuti sapendo che esiste un'anima, sapendo che quello che noi non tocchiamo, non riusciamo a soppesare, a toccare, a vedere, a descrivere, è l'anima. È convinto che comunque sia in una convenzione generale, comunque quando parliamo di anima, vede, ci intendiamo subito, poi possiamo sottilizzare quello che uno dice o non dice. Pronto? Sì, la sto ascoltando. Ecco, io posso contestare questo, cioè non è che noi cresciamo sapendo di avere un'anima, cresciamo sentendo dire che abbiamo un'anima, ci viene inculcato da preti, da educatori, eccetera, questo concetto, ma... Beh, diciamo che esiste anche poesia, letteratura, esiste poesia, letteratura, arte, non ci fermiamo soltanto agli aspetti che possono sembrare più vessatori, architettura, costruzione di città, costruzione di cattedrali, cioè, esistono anche molte rappresentazioni che ci riempono di fantastico, ispirate al senso dell'anima. Vabbè, può essere. Può essere, è così, scusi. Chi ha costruito delle cattedrali lungo certi percorsi in Europa aveva creato dei meccanismi di elevazione perché era convinto che servisse elevare. Ha comunque fatto un'opera che appaga il nostro senso estetico. Sono felice che l'abbiano fatto costruendosi su un'idea anche che può non essere condivisibile a chi non ha una visione che non sia razionale la propria esistenza. Stefano Morigi. No, poi volevo aggiungere una cosa. È vero, la cultura italiana è molto permeata, no? dall'esperienza cristiana, in particolare cattolica, ma vorrei ricordare che il problema dell'anima non è solo cristiano. È pre-cristiano. Cioè, esatto, per cui andrebbe affrontato in tutta la sua complessità senza ridurlo nei confini, per quanto importanti, soprattutto nel nostro contesto, di una sola tradizione. È molto molto più complesso, per non dire come viene ritematizzato in una cultura molto diversa dalla nostra, come quella orientale, per cui ci andrei cauti a parlare di anima associandola solo al cristianesimo. No, però si cade nel pregiudizio laicista, che è altrettanto vessatorio quanto quello, diciamo, integralista. È un problema che ha prodotto non soltanto oscurantismo, ha anche prodotto molto nel campo del pensiero. Assolutamente, ma l'anima è uno schema concettuale per risolvere il problema dell'io, detto in maniera molto generica. Ci hanno provato le metafisiche, le religioni, la scienza poi se ne è appropriata con i suoi strumenti, ha tentato di ricomprendere in un altro modo. Ciascuna esperienza ha dato opportunità di rileggere il problema dell'identità, della coscienza, in maniera diversa, diversificata, ma ovviamente ciascuno nella propria complessità ha portato un significato. Il vero problema, una volta dato per stabilito che con accezioni diverse tutti abbiamo l'idea che esista questo luogo su cui bisogna riflettere, e dove sia collocato, quali siano i luoghi dell'anima. Io ho citato i luoghi architettonici, le ricostruzioni concrete degli spazi metafisici che attraversano la Terra, ma esisteranno altre posizioni, altri punti di vista? Sai, dal mio punto di vista l'anima sta nello spazio utopico, diciamo così, delle relazioni con gli strumenti che l'evoluzione biologica e culturale ci ha consentito di produrre. Quindi non sta dentro di noi, non sta fuori di noi, ma sta nelle nostre interazioni e quindi nella capacità di evolvere in significati e pratiche di vita che le nostre esperienze quotidiane ci consentono di fare. Quindi non è esattamente un posto, è una relazione. Ecco. Io mi accorgo dell'anima nelle relazioni con esseri umani, in effetti. Relazionandomi con esseri umani a volte mi accorgo di avere un'anima. Quando sono solo parlo con grande leggerezza e impudicizia di quello che penso io. Quando sono solo non mi accorgo di avere l'anima, perché i miei pensieri, il mio colloquio con me stesso, non lo considero qualcosa di immateriale, di ineffabile, di fantasticamente legato a mondi sovrasensibili. Trattando con gli altri mi accorgo c'è qualcosa con cui devo fare i conti, ma ognuno poi la vede come pensa meglio. Stefano. Buongiorno. Io vorrei che questa fosse la trasmissione in cui non ci siano pregiudizi, o perlomeno, gloriosamente, fieri dei propri pregiudizi, si lasci parlare chiunque di quello che pensa. Ecco Stefano. Sì, salve, buongiorno. Io volevo fare un attimo un appunto molto veloce su quanto era stato detto riguardo al Golem, in particolare Frankenstein, che c'è un romanzo di Philip Dick, certo, che si chiama appunto Gli androidi sognano pecore elettriche. Mi sembrava particolarmente pertinente riguardo a quello di cui si stava parlando, perché fondamentalmente si parla di questo automa che dovrebbe non riprodurre la vita umana, sostanzialmente dovrebbe essere una mera macchina, e dopo un po', cioè, che poi dopo ha dato vita anche al film Blade Runner. Certo, diciamo, mi sembra, se non sbaglio, se non dico un'eresia, è il romanzo di Philip Dick che ha ispirato Blade Runner. Blade Runner, esattamente, esattamente, cioè, e praticamente già il titolo del libro di per sé è abbastanza evocativo, perché arriva a chiedersi se un automa può effettivamente sognare quello che noi umani, quando facciamo prima di andare a letto, sogniamo le pecore, contiamo le pecore, lui cosa fa? Conta. Chissà un automa, quando vuole provare le vibrazioni di cui c'è la Nostra Signora, cosa deve usare di elettrico? Esatto, cioè, non so, io leggo molto fumetti della Bonelli, Nathan Never in particolare, che ha affrontato più volte questo problema di etica tra, diciamo, tra un robot che arriva a sviluppare una coscienza da solo, cioè in base a processi logici sconosciuti all'uomo, che arriva fondamentalmente a provare sentimenti. Non so, mi sembrava particolarmente pertinente. Sì, guardi, lei ha messo le mani alla nostra grande passione. Io, Morigi, pensi che sono due settimane che ci stiamo occupando del rapporto tra carne e tecnologia, e quindi di conseguenza anche il rapporto tra l'anima e la tecnologia, tecnologicamente come definibile l'anima. Ne abbiamo parlato ieri, ne parleremo anche questa sera, possiamo dire, Stefano? Sì, ne parleremo questa sera, appunto, visto che mi dai la possibilità, ne approfitto, al museo di dei Fiorentini vicino a Via Giulia. Ne parleremo con Edoardo Boncinelli, che è un genetista, potremmo dire un erede del professor Victor Frank, anche se dall'altra parte un umanista, un giurista, il professor Francesco D'Agostino, e ci interrogheremo sul posto dell'anima, su dove si trova, su come la diciamo, su come la si potrà dire, soprattutto in futuro. E proprio è bello che lo facciamo in mezzo a sacre reliquie. Lo facciamo in mezzo a sacre reliquie, inserendoci in una tradizione molto complessa e con cui dobbiamo necessariamente fare i conti. Ma la reliquia cos'era, Stefano? Visto che al Museo dei Fiorentini sono racchiuse reliquie importantissime, cioè il Pietro di Maria Maddalena, il teschio di San Casto. Era una sorta di ricettacolo di alcuni effluvi dell'anima del santo che era attraversata la grazia, che ci permettono ancora di lambire qualcosa della sua anima. Sì, questo ci riporta a uno degli interventi precedenti dei nostri ascoltatori, cioè la reliquia è ciò che resta di un corpo eccezionale che è stato attraversato dalla grazia, però ci riporta a un modo di concepire il rapporto anima e corpo proprio del cristianesimo, che non è dualistico, per usare una parola difficile, come quello che era ancora per i greci, ma è il problema dell'incarnazione. Incarnazione, no? Il messaggio trascendente di Dio viene declinato nella forma dell'incarnazione nel corpo di un santo. Quindi l'opportunità quasi ossessiva di conservare la reliquia significa conservare quel messaggio che non ha potuto darsi se non nelle carni di quel corpo. Quindi non è una anima che ha frequentato quel corpo e poi l'ha lasciato, ma l'ha propriamente incarnato. Per questo le reliquie si conservano. Beh, noi andiamo a prepararci, perché questa sera alle 21 parleremo di anima, di corpo, tecnologia, di reliquie. Se qualcuno vuol venire a sentire, o possiamo dire via Infinia, non ci perdoneranno questa orrenda marchettina. Siamo in fondo a Via Giulia, al Museo dei Fiorentini. In fondo continuiamo a fare quello che abbiamo fatto alla radio questa mattina. Grazie Stefano Morigi, grazie Valerio Rocchetti, grazie Fabrizio Intonti, grazie a tutti coloro che questa mattina ci hanno dato l'anima. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.